5B. Ascolta e rispondi. Posso fumare qui? No, non puoi, mi dispiace. Posso tenere il gatto in appartamento? No, non puoi, mi dispiace. Posso prendere la macchina? No, non puoi, mi dispiace. Posso usare il dizionario? No, non puoi, mi dispiace. Posso cambiare aula? No, non puoi, mi dispiace. Posso fare una fotocopia? No, non puoi, mi dispiace.